Ehi, 25 aprile. Max Pura Onda Sound, Morgan, TB. Per un 25 aprile senza bandiere, per ogni caduto in ogni singola guerra, ogni caduto per la propria terra, ogni caduto per la libertà. Parlano di eroi della liberazione, le vie ricordano ai passanti la rivoluzione, uomini senza la divisa con una visione, la terra libera dai demoni dell'oppressione, periferia di Roma, parla di resistenza, ad ogni angolo ricordati della violenza, non è questione di politica ma di coerenza, periferia di Roma, periferia che pensa una canzone senza padre ma con 100.000 figli, le sue parole tramandate in 100.000 fogli, per i caduti, per i padri, per le loro mogli. Le notti insonni consumate dentro i nascondigli, il sangue sulle rocce, guarda le loro facce, cammina a piedi nudi per non lasciare tracce, scrivi a mia moglie che l'amo e che riposo in pace, mi trovo all'ombra di quel fiore dove tutto tace. La libertà la trovi a battersi nella bufera, metti il mio nome senza volto in una preghiera, sarà chimera ma combatto per la terra mia, a mani nude non mi serve la tua artiglieria, il freddo punge ma non vince con il partigiano, figlio della terra dove è nato come essere umano, ci pagherai il rispetto, guardaci le mani, per noi non c'è compenso, siamo partigiani, figli di Spartaco lottiamo perché domani i nostri figli siano liberi senza sovrani, uniti ma distanti sotto lo stesso cielo, il partigiano ha scritto il quinto grande evangelo, la resistenza grida, usa la stessa lancia, Germania, Russia, Italia, Spagna, Cina, Jugoslavia e Francia. Rifiuti urbani. 25 o'clock su Radio Onda Rossa live. Allora raga, questa è una storia interessante che parla di, vabbè non la faccio troppo lunga perché c'è i tempi stretti, però è dedicata a Dario e ai ragazzi di Radio Onda Rossa dei 25 o'clock che ci hanno permesso di poter parlare per un'ora intera esclusivamente di vomità quando si è troppi ubriachi, quindi direi che insomma sto pezzo è tutto quanto loro. Argomenti di un certo peso che ci piace sempre affrontare. Mercoledì 27 di maggio 2020, non andiamo a dirvi l'ora, perché in realtà non la sappiamo, la puntata va in differita, sarà una serie di tracce che vi andremo mano a mano a esporre uno dietro l'altra. Le frequenze sono sempre quelle di Onda Rossa 87.9 della modulazione della banda romana e laziale, www.ondarossa.info, il sito della radio. Radio che ha da pochissimi giorni, da pochissime ore, festeggiato i suoi 43 anni. E non è un gioco, non è uno scherzo fare 43 anni di radio. Una piccola radio, ma una grande radio, sia per la capacità in tutti questi anni di restare, come diceva qualcuno, di farsi surfare l'onda rossa. E sia perché lo ha fatto in una... è riuscito a vivere in un modo incredibile, a raccontarlo, cioè senza mai avere un contributo da padroni o padrini politici, come diciamo sovente da questi microfoni, ma soltanto grazie all'autogestione, quindi autogestione anche economica, quindi grazie al vostro contributo che in 43 anni non avete mai fatto mancare, e vi chiediamo di non farlo mancare proprio adesso, cioè nel momento in cui è in atto il radioabbonamento della radio 30 per 1000. Andando sul sito www.ondarossa.info e sul banner in alto potete avere tutte le informazioni in merito e anche sapere a quale cifra siamo arrivati. Per quanto riguarda il radioabbonamento brevemente è una iniziativa di sostegno a Radio Onda Rossa che permette, a conti fatti, di un preventivo che è di 30.000 euro l'anno per una radio che comunque trasmette, manda, c'ha un sacco di spese, eccetera eccetera. Una radio che diciamo trasmette, manda corrispondenze internazionali, ha rapporti importanti con tanti redattori che si trovano spesso molto lontani dall'Italia, e quindi una serie di spese correnti, anche tenere in piedi i trasmettitori eccetera. E proprio una emittente FM ha dei costi proprio di gestione, li troverete con molta tranquillità appunto nel andando a cliccare sulla campagna di radioabbonamento. Allora, noi vi ricordiamo anche il numero della radio 0649 1750, il numero telefonico della radio da sempre, la casella di posta elettronica della redazione che è ondarossa@ondarossa.info. Alla stessa maniera potete mandarci i vostri insulti, i vostri contributi, come preferite, alla mail 25o'clock@ondarossa.info. Ricordiamo che da un po' di settimane ci siamo così imbarcati in questa storia, in questa sorta di gioco che facciamo, che si chiama Trip Virus, che è un montaggio così. Di cultura pop, fra appunto tracce musicali e cose che andiamo a pescare sulla rete e voci da mass media, tutto da mass media, da media da da media mainstream, che però andiamo a rifrullare dentro un cervellotico mix. E ne è uscito fuori il Trip Virus in varie puntate, iniziato ormai all'inizio appunto di questa proclamata pandemia. Va bene, noi dicevamo andiamo a iniziare così, mano a mano vi daremo poche informazioni, proprio perché vi dicevamo la puntata è fatta così, un po' anche tutta intera, copia e incolla. E poi vedremo un po' cosa succede, dai. Iniziamo con quanto abbiamo trasmesso la scorsa settimana, e cioè da Rock & Ritz. Canterò per noi e per le nostre idee, amico mio, sai certo canterò. Sono già andato, rassegnato, stufo, lo son sempre stato. Non è una novità che mi sentirai cantare. Anime sporche, noi pur non volendo ci hanno fatto male. Chi ha tradito, chi finge ancora bene. Volevo offrirti birra calda, appoggio sopra tre scalini sgretolati che non ci sono più. Avrò ribelli da crescere, una canzone per chi ci vuol divisi. Lo stato, il capitale, il tempo, per sentito dire, avrò l'immagine di noi da raccontare. Racconterò, amico mio, lo sai che non mi zitto mai. Ho preso un mutuo sulla polemica. Il pub che chiude, la radio va e tu non vuoi dormire. Si parla ancora di Dylan Dog e Bakunin. Belli da crescere, una canzone per chi ci vuol divisi. Lo stato, il capitale, il tempo, il per sentito dire, avrò l'immagine di noi da raccontare. Se rivedo i nostri guai, stay free my friend, la strada tu la sai. Se canti un pezzo, se sei da solo, se c'è da menare, ci metto un po', ma sai che arriverò. Avrò ribelli da crescere, una canzone per chi ci vuol divisi. Lo stato, il capitale, il tempo, il per sentito dire, avrò l'immagine di noi da raccontare. Avrò ribelli da crescere, una canzone per chi ci vuol divisi. Lo stato, il capitale, il tempo, il per sentito dire, avrò l'immagine di noi da raccontare. Avrò l'immagine di noi da ricordare. Avrò le strade tue ancora da incrociare. E questo che abbiamo ascoltato era Rock & Ritz, da cui abbiamo tratto la traccia che si chiama Canterò, anche se nel file è scritto senza accento sulla O. E nel frattempo invece stiamo ascoltando Cambia il corso del fiume, sempre dal lavoro proprio di qualche giorno fa, praticamente poco più di una settimana fa, da parte di Rocker Ritz, che ricordiamo bluesman romano proveniente dalla scena, insomma, dei Monti Sabatini, dai, diciamola così. Le tue impronte per la strada, metterti le ali. Ma sei uno stupido idiota, uno stupido perdente, e lo sai. Cambia il corso del fiume, ma tu non cambi mai. All'incrocio non c'era nessuno, tutti i diavoli li hai già incontrati. Non puoi più ingannarti, disperati se vuoi o riparti. Ogni occasione è persa sul fondo, oramai. Cambia il corso del fiume, ma tu non cambi mai. Ancora una volta, sovranità della razza italiana, voteranno un nuovo padrone, e tu coglione che fai? Ti fermi ancora nei bar a parlare con gli operai. Cambia il corso del fiume, ma tu non cambi mai. Continua pure a non crederci, ma la fine biblica ora sembra arrivare. Troppo odio dietro i cancelli serrati, troppi cervelli bruciati, e tu prendi e ti rimetti a suonare. Perché cambia il corso del fiume, ma tu non vuoi cambiare. Ancor prima che i giudici ti avranno, puoi cambiare il corso del tuo passo e sperare di trovare sull'altra riva un altro pazzo, altri dannati che come te son nati. We'll be right back. qualcuno ha detto che sei scappato l'altra sera al bar. Sai com'è fatta la gente che vive qua, beve troppo e non sta zitta mai. Non ci far caso dai, piuttosto scrivimi sempre dovunque andrai. Sei sempre una di noi, sempre una di noi. Go! Padre ha rotto un altro bicchiere, tua madre un'altra promessa, la vita in fondo alla strada è sempre la stessa. Profumo d'olio, motore e gas, la settimana nera si tinge e muore d'arancio di sera. Qualcuno è in cerca di guai, beh, qualcuno avrà dei guai. Il buio oltre la ferrovia, là dove vivono i tuoi. Mascara che cola, tu non hai chiesto mai niente di così grande che non entrasse in uno zaino di scuola. Ma il quartiere è stretto ed il mondo è grande. Io non ho mai creduto per un istante che quel tempo all'idroscalo a contare le stelle, beh, sarebbe stato per sempre, sarebbe stato per sempre, per sempre. Per sempre il buio oltre la ferrovia ed i casini coi tuoi. Io so che non tornerai mai qui, che non tornerai mai qui, che non tornerai mai qui, no, non tornerai mai qui, tu non ritornerai. Allora, e da Small Town Boy, l'ultimo lavoro di qualche mese fa di Pat, che come Rock and Ritz edita per la etichetta Folk Beat Vendetta, etichetta appunto autoprodotta e autofabbricata, diciamo, da parte proprio di del nostro Pat, che peraltro ci ha anche ringraziato appunto nell'ultima puntata, in cui così abbiamo dedicato come questa sera un pezzetto di trasmissione a queste autoproduzioni. E quindi dopo il lavoro Come il fiume di Rock and Ritz, siamo passati appunto a Small Town Boy e Il buio oltre la ferrovia, la traccia che abbiamo ascoltato. Tuo padre ha rotto un altro bicchiere, tua madre un'altra promessa, la vita in fondo alla strada. Allora, come nelle scorse puntate, continueremo così a riproporre un po' dei trip virus e perciò andiamo avanti riproponendovi proprio qualche traccia di coloro che ci hanno costituito da base, diciamo, questa sera ci hanno dato lo spunto, i riff giusti per costruire il trip virus. E perciò cominciamo Dropkick Murphys, che credo non abbiano bisogno di tante presentazioni, dalla città più irlandese degli Stati Uniti a Boston, un vecchio lavoro di Dropkick Murphys del 1997, che si chiamava Do or Die, che è proprio celeberrimo per questa seconda traccia, un vero proprio inno skinhead, Do or Die. Invece noi ci ascoltiamo Co in a Jar. che cola. Tu non hai chiesto mai niente di così grande che non entrasse in uno zaino di scuola. Ma il quartiere è stretto ed il mondo è grande. Io non ho mai creduto per un istante che quel tempo all'idroscalo a contare le stelle sarebbe stato per sempre. Now there comes a time in every man's life where decisions have to be made. Whether to toil, to labor, or just plain piss your days away, away, away. Got a funny feeling that my times are caught in the dark, that this insanity have arrived. Notes of Christ and everyone else, my times are caught in the dark. Satan's grin is bearing down on me. The morn, here comes the day. God knows I hate it this way. When I'm in a casket life, fighting the wife, neglecting the kids, spending time on ridiculous bits. Four walls are closing in. Got a funny feeling that my times are caught in the jar. Madness and insanity have arrived. Not to trust in everyone else, my times are caught in the jar. Satan's grin is bearing down on me. My times are caught in the jar. Madness and insanity have arrived. No to Christ and everyone else, my times are caught in the jar. Satan's grin is bearing down on me. Got a funny feeling that my times are caught in the jar. Madness and insanity have arrived. No to Christ and everyone else, my times are caught in the jar. Satan's grin is bearing down on me. And insanity never arrived. I lied to walk in the summer breeze, that darling rock by a dead old tree. I drink with my friends the Hammersmith Broadway. They dirty the life, but all drunk and all dies. And the wind took him down and I loved it so dearly. The pubs and the bookies where you'd spend all your time. And the old man that was singing when the roses bloom again and turn like the leaves to a new summertime. Now the winter comes down, I can't stand the chill. It comes to the streets around Christmas time. I'm buggered to the nation and I haven't got a penny to wander the dark streets of London. Around Christmas time, I'm buggered to the nation, and I haven't got a penny E dopo il lavoro dei Dropkick Murphys non poteva mancare che una puntata con i Pogies, una tappa con i Pogies dal loro lavoro celebre, che non può mancare insomma in una raccolta di musica. 1984, dicevamo, Red Roses for Me, da cui abbiamo ascoltato la settima traccia, che si chiamava Dark Streets of London. È il momento però di passare a Shine a Light, Find the Recording from the Great American Railroad, così recita il titolo e il sottotitolo della copertina, Billy Bragg e John Henry, registrato in 4 giorni lungo 2728 miglia sulle tracce dei binari fra Chicago e Los Angeles, questo recita la copertina, da cui ci andiamo ad ascoltare la ottava traccia, In the Pines, 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa. Little girl, little girl, don't you lie to me. Where did you sleep last night? In the pines where the sun never shines. You shiver when the cold. Longest train I ever saw went down that Georgia line. The engine passed at 6 o'clock and the cab went by. In the pines where the sun never shines, you shiver when the cold wind blows. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Bastard is.

in una esibizione live del una registrazione, anzi un'uscita fatta nel 1997 per la 26F Record, 26F Record, 26F Record RPM Incorporated. E si tratta di Flogging Molly dall'altra costa, quella sul Pacifico degli Stati Uniti, un altro gruppo che però pur provenendo dagli States si cimenta con la tradizione e i suoni più propri della zona, dell'area celtica e dell'Irlanda in particolare, da cui abbiamo tratto Black Friday Rule, un lungo live di oltre 8 minuti. Ora però siamo ormai pronti per dare il via al Trip Virus, non quello di questa sera, ma rimandiamo il vecchio Psy Complotto Trip Virus, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. When I walk along some railroad track and find that you're waiting on the back roads by the rivers of my memory, for hours you're just gentle on my mind. Though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, and some other woman's crying to her mother 'cause she turned and I was gone. Well, I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you, walking on the back roads by the rivers flowing gentle on my mind. Well, I dip my cup of soup back from a gurgling, bubbling cauldron in some train yard. My beard a roughening, a coal pile, and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands, round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving on the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind.

baby, just give me some of your love, man. Just give me some of your love. Just give me some of your love, girl. Baby, just give me some of your love. Dopo Psycomplotto Deep Virus abbiamo ricominciato con Egip di tratto da El Pass Stranger della Counters, la band che conta nella formazione ovviamente Jack White e Brendan Benson, che sono rimasti così i due promotori principali della band, che si avvalgono però di un numero abbastanza cospicuo di musicisti: Jack Lawrence, Perry Keller, White, appunto, Brendan Benson, che già abbiamo citato, Ferita, Joshua B. Smith, Lilia Mairisci e Scarlett Ricci, compresi quindi di mandolino, viole e un'infinità di strumenti del nostro Southern Rock Rock proposto da The Raccounters. E come sapete, in queste settimane abbiamo giocato con il Trip Virus, con questi montaggi, andando così a scovare in rete, miscelando, mischiando, mistificando insieme a dei poveri artisti così inconsapevoli, in cui abbiamo rubato parte dei loro sample per creare il Trip Virus. Questa settimana abbiamo giocato un po' con le fasi di questa storia che stiamo vivendo, e questa insomma è la fase della riapertura e dopo appunto il complotto di due settimane fa. Ora siamo appunto al liberi tutti, il cosiddetto liberi tutti, che non è così, questa travagliata vicenda da cui non si riesce a uscire, o comunque non si sembrerebbe che non si riesca a uscire a testa alta. Questo è un po' il nostro gioco, il nostro scherzo e la nostra presa per il culo in tutta questa faccenda che riteniamo così sempre più grottesca e dannatamente seria. Quindi questo è, ci riprenderemo le piazze, Trip Virus. We'll be right back. Siamo! Riaprono le attività commerciali. Riaprono le attività commerciali. Le incognite commerciali. Le incognite commerciali. Le incognite. La riapertura ormai è quasi completa per tutte le attività. Regole commerciali contraddizioni, contraddizioni, regole, contraddizioni, regole, commerciale, molto bene, contraddizioni, molto bene, contraddizioni, molto bene, contraddizioni, contraddizioni, regole, molto bene, contraddizioni, contraddizioni, contraddizioni, regole, regole, regole, le incognite. Molto bene, contraddizioni. Molto bene, contraddizioni. Regole, contraddizioni. Regole, contraddizioni. Contraddizioni, contraddizioni, regole, ci riprenderemo tutta, ci riprenderemo tutta, motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Molto bene, contraddizioni. Molto bene, contraddizioni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Ci riprenderemo tutto. Contraddizioni. Regole. Regole. Regole, regole, regole. Molto bene, contraddizioni. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. Motori spenti e macchine che si usano poco o niente. easy rider, see what you gone done. Easy rider, see what you gone done. Easy rider, see what you gone done. Well, you made me love you, now your man done come. Made me love you, now your man done come. Made me love you, now your man done come. Hey, hey, hey, hey. Ci avviciniamo alla conclusione perciò di questa puntata e dopo ci riprenderemo le piazze Trip Virus. Abbiamo ascoltato CC Rider da un vecchio lavoro del 2004 di Old Crow Medicine, quindi Blue Brass, per cui continuiamo invece prima della chiusura con una cosa che ci piace di tanto in tanto mandare, e stiamo parlando di Eating to Do, William Elliott Whitmore, tratto dal lavoro Radium Death del 2015, un disco che ci metteva in guardia dalle nocività e da quanto stavamo combinando come genere umano nei confronti della nostra terra e della nostra casa. E insomma, William Elliott Whitmore, Into the Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata indifferita di 25 O'Clock. Vi ricordiamo la campagna di radio abbonamento che la radio sta facendo, in quanto la radio si mantiene grazie ai vostri contributi, non avendo sostegno di altro genere, e in questo periodo in cui è praticamente impossibile fare delle iniziative pubbliche di finanziamento, insomma, il vostro contributo attraverso il radioabbonamento è assolutamente indispensabile. Inoltre la radio, appunto, con i suoi redattori e le sue redattrici sta facendo un lavoro eccellente in questo periodo di documentazione, informazione, dibattito rispetto al passaggio epocale di questa terribile situazione che stiamo vivendo, e quindi è importante sostenerla, è importante fare in maniera tale che questa esperienza rimanga in vita per tanti altri anni ancora. Vi ricordiamo il numero del telefono 0649 1750, il sito della radio www.ondarossa.info, e infine ricordiamo che le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui, riprenderà, che non sono in diretta, indifferita, le programmazioni così che vanno all'orario solito finiscono qui, si riprenderà domani mattina alle ore 8, dopo che vi avrà tenuto compagnia la compagna automatica suonata per tutta la notte, alle 8 con le prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, i redazionali della mattinata e tutte le informazioni, fino alle 14 quando ci sarà tutta scena cinema, alle 16 Artica Blues per Black Music, le Fine al Sole alle 17, il Mezzeres alle 18, Cabula Rasa alle 20 e a chiudere i Cuginetti di Apostasia alle 23. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, perché fino a che ci saranno delle persone prigioniere nessuno e nessuna sarà veramente libero e libera. E niente, ci diamo appuntamento a questo punto a mercoledì prossimo. Forse potrebbe anche essere che magari ritorneremo a fare capolino, capoccetta, capocella dentro gli studi di Onda Rossa, a mettere mano su mixer e CDJ. Vediamo come andranno le cose. Bella a tutti e a tutti, ci risentiamo mercoledì prossimo. Dai! Oh. kiss her.